Il punto di Stefano Folli. È possibile, anzi è probabile, che i futuri nuovi senatori debbano conservare una forma di immunità per ragioni costituzionali, per non creare una frattura con la Camera dei Deputati, per garantire la dignità dell'istituzione, per questi e altri motivi anche nobili. Ma allora qualcuno dovrà spiegare la contraddizione che si apre fra questa realtà e le premesse con cui la riforma era stata presentata all'opinione pubblica. Il Senato doveva essere rifondato perché costava, perché era inutile, perché era solo un'espressione della casta e i senatori sotto sotto erano quasi dei malfattori. Non si possono usare questi argomenti per compiacere un certo stato d'animo dell'elettorato e poi all'improvviso reintrodurre l'immunità. La gente finisce per non dire più niente, si genera una confusione che è il prezzo che si paga quando si vuole fare una riforma seria, inattaccabile dal punto di vista costituzionale e senza dubbio necessaria, appoggiandola ad argomenti populisti e slogan di facile presa. Prima o poi, come si dice, i nodi vengono al pettine.